GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Rallenta la crescita economica in Friuli Venezia Giulia, produzione industriale in contrazione, soprattutto per il comparto del legno e arredo e della metallurgia. Investimenti in stallo, frenati anche dall'aumento del costo del credito. Vittime d'odio, di pregiudizi razziali, di sesso, di religione, per fornire loro supporto e agevolare le denunce, si sta svolgendo al NIB di Trieste un evento organizzato dalla Questura con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Dedicato agli orfani vittime collaterali di femminicidi, il progetto dell'Associazione Voce Donna di Pordenone in regione sono 14, due già presi in carico dal sodalizio. Eseguito per la prima volta presso la cardiochirurgia di Trieste l'impianto di un cuore artificiale miniaturizzato, totalmente impiantabile in un paziente affetto da cardiomiopatia dilatativa in fase terminale. Il problema sempre più pressante della carenza dei medici di famiglia fa ben sperare l'aumento di aspiranti medici di base candidati al prossimo concorso. A 45 anni di distanza dal varo, la regione vuole rinnovare il piano urbanistico per affrontare le sfide del cambiamento come il riscaldamento globale e il calo delle nascite. A Udine un confronto su come agire sul territorio. Lo sport, calcio, iniezione di ottimismo per l'Udinese dopo il pareggio di ieri contro l'Atalanta. La squadra ha ritrovato fiducia, dice mister Cioffi. Il derby di basket di ieri al Palatrieste, vince Trieste contro Cividale. Buone le prestazioni per entrambe le squadre. Ancora una buona giornata da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. L'avete sentito dai titoli, dunque prosegue il rallentamento della crescita economica nella prima metà dell'anno in Friuli Venezia Giulia. Lo scrive l'indicatore trimestrale dell'economia regionale elaborato dalla Banca d'Italia. La produzione industriale si è contratta e le vendite sono diminuite in misura più accentuata nel mercato interno rispetto a quello estero. È un'economia in rallentamento, quella del Friuli Venezia Giulia, che emerge dai dati dell'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia. La crescita del PIL regionale registrata dall'indicatore trimestrale ITER, più 0,9%, si è concentrata tra gennaio e marzo per poi annullarsi nel secondo trimestre dell'anno. E anche gli altri dati confermano le difficoltà, dalla produzione industriale calata del 6,8% rispetto al primo semestre 2022 alle esportazioni diminuite del 3,6%, numero che risente di quanto succede in paesi con cui l'economia del Friuli Venezia Giulia ha forti legami, come la Germania, paese che assorbe il 14% delle esportazioni regionali e verso cui l'export è diminuito del 7,7%. I prestiti alle imprese nei primi sei mesi dell'anno sono diminuiti dell'11,3%, probabilmente anche perché le aziende hanno deciso di utilizzare la liquidità accumulata negli scorsi anni di tassi favorevoli. L'erogazione del credito è diminuita anche verso il settore privato e le famiglie, soprattutto a causa del maggior costo dei mutui. E se l'inflazione sta continuando a scendere, a settembre in Friuli Venezia Giulia è stata del 4,8%, più che dimezzata rispetto a un anno fa, anche se questo effetto per ora non si sente sui prezzi dei beni di consumo e alimentari, il suo andamento dell'ultimo periodo ha spinto le famiglie a cercare di proteggersi dall'erosione del potere d'acquisto. Da qui la crescita del 23,6% nei primi sei mesi dell'anno degli investimenti in strumenti più remunerativi, in particolare titoli di Stato. Il commento del direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, Marco Martella. I dati che abbiamo fornito oggi sono dati aggiornati al 2023, ma anche con una proiezione per il resto dell'anno grazie alle nostre indagini qualitative che facciamo presso le imprese della regione con più di 20 addetti. L'economia regionale risente essenzialmente di un andamento dell'economia globale con una crescita in rallentamento, ma anche di un andamento a livello di area dell'euro e dell'Italia che è conforme a quanto stiamo vedendo appunto in regione. Ovviamente pesa anche un effetto di natura statistica relativo al fatto che nel corso del 2022 la crescita era stata molto più elevata e quindi quello che stiamo osservando quest'anno è comunque un dato di rallentamento, ma comunque sempre un dato positivo. Trieste, Daniele Lettic, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente regionale Confcommercio Giovanni Da Pozzo, nel suo ruolo di vicepresidente nazionale, ha partecipato alle audizioni delle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra 2024. La manovra è in disavanzo per circa 12 miliardi e mezzo di euro, ha dichiarato Da Pozzo, ma assegna poco meno di 15 miliardi alla riduzione del cuneo fiscale e al ridisegno delle aliquote IRPEF. In altri termini, si prende un po' di tempo rispetto al percorso programmato di riduzione del rapporto debito-PIL, ma lo si fa considerando prioritario il sostegno alle famiglie e alle imprese. Resta però l'esigenza di dare prospettiva strutturale agli interventi messi in campo, ha proseguito da Pozzo, prevedendo una crescita dei consumi dell'1% nel prossimo anno a fronte di una variazione dei prezzi del 2%. Sottolineato poi il rilievo della transizione ecologica in chiave di crescita, così come di investimenti infrastrutturali, quale il ponte sullo Stretto di Messina, mentre è necessario, ha concluso da Pozzo, risolvere il nodo della contrazione creditizia di lungo corso registrata dalle micro e piccole imprese. Prevenire e contrastare crimini di odio, quelli motivati da un pregiudizio legato alla razza, etnia, razionalità, religione, lingua, disabilità e orientamento sessuale. A Trieste la polizia e i carabinieri hanno organizzato un convegno nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Titolo appunto «Le vittime dell'odio». Non sono tante le denunce per i crimini di odio. I comportamenti discriminatori a bassa intensità vengono accettati dalla società perché non percepiti come offensivi, ma interpretati magari come episodi di goliardia, e il rischio è che le stesse forze dell'ordine non riconoscano la matrice discriminatoria del reato. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni. Qualche denuncia l'abbiamo avuta. Però ci vuole maggiore consapevolezza, quindi vogliamo anche raggiungere la gente e soprattutto i giovani e fargli capire quanto sia importante segnalare anche questi reati che spesso sono sottovalutati da chi li subisce. Per agevolare la presentazione delle denunce e per accrescere la consapevolezza degli operatori di polizia, il Ministero ha istituito nel 2010 l'OSCAD, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, uno strumento operativo interforze che ha anche il compito di informare la cittadinanza sugli strumenti esistenti per prevenire questo tipo di reati. Ci sono due norme specifiche del codice penale, che è l'articolo 604 bis e l'articolo 604 ter. Ogni cittadino può scaricare sul proprio telefonino un'app che si chiama UPOL, che serve a denunciare tutti i reati in generale, anche in forma anonima. Anche questo è uno strumento importante. La crisi in Medio Oriente sta mettendo a dura prova la società. Con la diffusione dell'antisemitismo, anche l'attività delle forze dell'ordine è diventata più complessa. Si sta monitorando continuamente questo fenomeno. Questo momento di crisi internazionale, naturalmente, è un momento che preoccupa tutti. E noi come operatori di forze di polizia dobbiamo prestare la massima attenzione, ed è quello che stiamo facendo. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Restiamo in tema sui crimini di odio. Per agevolare la presentazione delle denunce e accrescere la consapevolezza degli operatori di polizia, il Ministero ha istituito nel 2010 l'OSCAD, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Quello di Macerata del febbraio 2018, quando Luca Traini ferì a colpi di pistola 6 persone di origine africana in un attacco di matrice razzista, è stato solo uno degli episodi più terribili. Ma anche senza arrivare a esiti così gravi, sono molti i crimini di odio che ogni giorno vengono compiuti nel nostro paese. Si tratta di quelli commessi contro una persona o i suoi beni, motivati da un pregiudizio riguardo ad alcune sue caratteristiche come l'origine etnica, la religione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la disabilità, che sono puniti in base alle norme previste dalla cosiddetta legge Mancino del 1995. Per dare impulso alla prevenzione e al contrasto di questi reati di matrice discriminatoria e accrescere la consapevolezza degli operatori di polizia sulla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e soprattutto delle persone particolarmente vulnerabili, nel 2010 è nato l'OSCAD, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, uno strumento operativo interforze interno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, presieduto attualmente dal vicecapo della Polizia, Vittorio Rizzi. Le caratteristiche che rendono i crimini d'odio particolarmente gravi sono la tendenza a non essere denunciati, il pericolo di escalation, quando atteggiamenti e comportamenti discriminatori a bassa intensità sono accettati dalla società perché non percepiti come offensivi ma interpretati magari come episodi di goliardia, e il rischio che le stesse forze di polizia non riconoscano la matrice discriminatoria del reato. In questo contesto, l'OSCAD si occupa di agevolare la presentazione delle denunce, mantenere i rapporti con le associazioni e le istituzioni che si occupano di contrasto alle discriminazioni, monitorare il fenomeno attraverso i dati disponibili, promuovere l'aggiornamento degli operatori delle forze di polizia, attivare collaborazioni istituzionali in ambito nazionale e internazionale e partecipare a campagne di comunicazione e sensibilizzazione. Le segnalazioni all'OSCAD vanno indirizzate all'indirizzo mail oscad@dcpc.interno.it e non sostituiscono la denuncia alle forze di polizia. Se la segnalazione si riferisce a un reato, sarà proprio l'osservatorio a inoltrarla agli uffici delle forze dell'ordine competenti per territorio. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 13 gradi e 5 decimi, a Udine 12 e 5, a Pordenone 11 e 5, a Gorizia 7 gradi, a Tolmezzo 7, a Forni di Sopra 6 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 6, sul Piancavallo 4 gradi e 5 decimi, a Sappada meno 1 grado, sul Monte Lussario 5, sul Monte Zoncolan 4, a Grado 12, a Lignano 10 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore, cielo variabile su tutta la regione. Eseguito per la prima volta presso la cardiochirurgia di Trieste l'impianto di un cuore artificiale miniaturizzato totalmente impiantabile in un paziente affetto da cardiomiopatia dilatativa in fase terminale. Questo dispositivo, denominato tecnicamente LVAD, ha la capacità di sostenere meccanicamente la funzione del ventricolo sinistro nei casi in cui questa sia severamente compromessa da una cardiomiopatia. L'intervento è stato eseguito alcuni giorni fa con esito favorevole. L'immediato decorso post-operatorio nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia è stato regolare. Il paziente proseguirà il necessario percorso riabilitativo presso il reparto di degenza. Si tratta di un intervento assolutamente nuovo per il polo cardiologico dell'ospedale di Cattinara di Trieste ed è frutto della stretta collaborazione dipartimentale tra la cardiochirurgia diretta da Enzo Mazzaro e la cardiologia di Gianfranco Sinagra. La cardiologia di Trieste, sotto la guida del professor Sinagra, è da molti anni centro di riferimento nazionale e internazionale per il trattamento dello scompenso cardiaco. E nel 2022 nell'area Giuliano-Esontina è stato preso in carico entro 30 giorni il 40% dei pazienti dimessi dagli ospedali per scompenso cardiaco. Il dato emerge dal report nazionale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali AGENAS, che sottolinea come la percentuale sia migliore rispetto al 30% dell'area udinese e al 23% dell'area pordenonese, così come al dato nazionale. Il modello organizzativo Giuliano ha permesso anche di ottenere un tasso di ricoveri per scompenso cardiaco del 2,3-2,4 per mille abitanti, inferiore sia al dato regionale sia a quello nazionale. Il rapporto indica poi che a Trieste sono state eseguite nello scorso anno 2.400 visite cardiologiche e 1.500 pazienti affetti da scompenso cardiaco. A Trieste inoltre l'88% dei pazienti è preso in carico entro 30 giorni dalla dimissione per la verifica dello stato clinico e il tasso aggiustato di mortalità è del 6,5% a fronte di un numero di recidive inferiore del 14,3% sia al dato medio regionale sia a quello nazionale. Andrea Di Lenarda, direttore patologie cardiovascolari, ha commentato che il modello organizzativo di ASUGI consentirà in futuro una sempre più stretta collaborazione tra gli specialisti delle patologie croniche con quelli di medicina generale. La carenza dei medici di famiglia, uno spiraglio ma a lungo raggio, fa ben sperare l'aumento di aspiranti medici di base candidati al prossimo concorso. I numeri appena diffusi del CEFORM e del Centro per la Formazione in Sanità farebbero ben sperare. Su 57 posti disponibili sono infatti 67 i medici candidati al prossimo concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale il 30 novembre. Passaggio necessario per l'esercizio dell'attività ambulatoriale e vista la grande carenza di medici di famiglia, importante per capire quanti nuovi professionisti entreranno in quest'ambito. Diverse però sono le incognite, guardando allo storico. Non è detto infatti che tutti i 67 medici partecipino al concorso e una volta entrati e completato il ciclo formativo che confermino la propria scelta o restino in regione. E c'è anche la possibilità che possano cambiare in corsa durante la formazione e passare ad altre specialità universitarie, ricorda il direttore del CEFORMED Romano Paduano, spiegando che si tratta di un'eventualità che può rivelarsi già dal primo anno di formazione, favorita da un distorto sistema dei concorsi organizzati su tempistiche di calendario diverse. All'ultimo primo concorso, osserva ancora Paduano, è successo anche che molti medici dirigenti ospedalieri vi abbiano partecipato senza però riuscire a raggiungere l'obiettivo, poiché non hanno ottenuto l'aspettativa. Il segretario del sindacato SNAMI di Trieste, Matteo Picerna, segnala anche che una buona parte dei 27 medici di medicina generale appena diplomati dal CEFORMED andrà a lavorare in Veneto. Spiega che è per ragioni logistiche e anche perché i contratti sanitari in quella regione sono più remunerativi. Preoccupato il presidente della Federazione Regionale dei Medici di Medicina Generale, Guido Lucchini, secondo cui per arginare l'emorragia di camici bianchi servono nuovi criteri e vincoli per trattenerli in regione dopo la formazione, ma anche nuovi incentivi, a cominciare dalla borsa di studio, oggi di 800 euro lordi, circa la metà di quella di uno specializzando universitario. Lara Boccalon, TGR di Venezia Giulia. È stato istituito nel 1978 il piano urbanistico regionale, primo esempio in Italia di pianificazione di vasta area in grado di coniugare lo sviluppo di insediamenti produttivi con la previsione di tutela degli ambiti a maggior valenza ambientale. A 45 anni di distanza appare necessario un nuovo piano. Per questo la Regione ha organizzato una giornata d'ascolto che si sta svolgendo a Udine. Risale al 1978 il PURG, il Piano Urbanistico Regionale Generale. Dopo il terremoto è stato documento cruciale e imitato nello stabilire dove si poteva costruire e cosa andava protetto. Ma oggi il Friuli Venezia Giulia non è più confine, bensì ponte tra est e ovest, e così 45 anni dopo la regione vuole riformare questo strumento, adattandolo ai tempi. In quest'ottica ho organizzato a Udine un primo momento di ascolto con centinaia di amministratori, consorzi, enti, ordini professionali. Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture e al territorio. È chiaro che sono cambiate molte cose, dal cambiamento climatico all'inverno demografico. Il mondo va molto più veloce di un tempo e di conseguenza serve uno strumento che sia in grado di mettere a terra quelli che sono gli investimenti che riguardano il nostro territorio. Il punto di partenza, gli studi commissionati alle università Trieste, Udine e Venezia. Linee guida di indirizzo, salvaguardia del policentrismo, valorizzazione degli ecosistemi, infrastrutture strategiche. Giovanni Longo, professore di trasporti all'Università di Trieste. È importante immaginare nel localizzare un polo industriale che dovremmo essere in grado di gestire gli spostamenti delle merci. Oppure se andiamo a localizzare servizi per l'infanzia o residenze, dobbiamo essere, tenere in considerazione il fatto che la gente deve poter portare i bambini all'asilo. Quindi questa creare una congruenza fra l'esigenza di spostarsi e la possibilità di farlo, secondo me è una cosa importantissima. Il vecchio PURG fa fatica a governare la rigenerazione di zone dismesse oppure non contempla destinazioni d'uso miste, come una palestra in una zona produttiva. Gli uffici tecnici dei comuni ne auspicano l'aggiornamento. Cristina Andriusso, caposettore urbanistica ed edilizia privata a Lignano Sabbiadoro. Nuove regole per i parcheggi, per la mobilità in genere, perciò noi abbiamo bisogno di quel tipo di indicazioni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone è operativo da un anno il progetto dell'associazione Voce Donna che si prende carico dei cosiddetti orfani da femminicidio, l'occasione per fare il punto del programma. Sono le vittime invisibili dei femminicidi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno perso la mamma per mano del padre e che spesso hanno vissuto situazioni in cui l'omicidio della madre è solo l'epilogo di violenze domestiche ripetute cui talvolta loro stessi hanno assistito. Dal 2021 l'associazione Voce Donna di Pordenone è referente per il Friuli Venezia Giulia del progetto interregionale dedicato agli orfani di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie. Jessica Mattiuzza, referente regionale del progetto Orphan of Femicide Invisible Victim per Voce Donna. La mappatura realizzata da EURES vedeva inizialmente 8 orfani di femminicidio con target 0-21 anni, diciamo di femminicidi avvenuti tra il 2009 e il 2021. A oggi abbiamo integrato questa mappatura e siamo arrivati a un totale di 14 orfani e orfane, due dei quali sono stati trasferiti in altre regioni d'Italia. Oggi abbiamo fatto già due prese in carico, quindi di due orfani e insieme alla loro famiglia affidataria, che significa aver attivato tutta una serie di supporti psicosociali, educativi, consulenze legali, psicoterapici, proprio a sostegno loro e della propria famiglia affidataria. Tra gli altri beneficiari oggi contiamo altri 10 potenziali beneficiari, 8 dei quali sono già stati contattati, agganciati, per cui ci auguriamo e speriamo di poter fare ulteriore presa in carico nei prossimi 2 anni. È stato organizzato anche il primo incontro di formazione per avvocati sul tema degli orfani di femminicidi, in programma il 22 novembre in Biblioteca Civica a Pordenone, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati. Da inizio anno sono già 263 gli accessi al centro antiviolenza di Voce Donna, Pordenone. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Propone il lavoro svolto in diversi decenni il libro I bambini in testa del pediatra Giorgio Tamburlini, già direttore scientifico dell'Istituto Burlo Garofalo di Trieste. Tra le pagine le attenzioni che consentono a un bambino di crescere bene, da un ambiente sicuro a una giusta alimentazione, fino a stimoli adeguati all'affetto dei genitori. Il libro sarà presentato dall'autore a Udine alla Biblioteca Civica Ioppi alle 17.30. Abbiamo intervistato Tamburlini per chiedergli quali sono le maggiori difficoltà che i genitori devono fronteggiare in qualità di educatori dei propri figli. La principale difficoltà è che vengono a mancare oggi, molto più che in passato, le occasioni di confronto, perché ci sono pochi bambini, perché le famiglie sono più piccole, perché si vive molto più isolati e quindi manca la possibilità di avere un'idea di come fare, di cosa fare. In tutto questo oggi sento molto più disorientamento e solitudine, soprattutto del passato. In che modo le istituzioni possono dare supporto alle famiglie? Possono dare supporto creando occasioni, spazi dove i genitori, fin da dopo la nascita, se non addirittura prima, possono confrontarsi fra loro su un piano molto pratico, quindi sul tappeto, per capirsi, con i loro bambini, su come possono essere e come possono stare con loro, sulle attività che possono fare, sulle attenzioni che possono avere. Tutto questo è un contesto facilitante, è un contesto in cui ci si può confrontare, si può avere qualcuno di esperto che ci accompagna in questo percorso. In questo contesto di genitori e istituzioni che si interfacciano con i giovanissimi, quale sarebbe la prima misura da mettere in campo per facilitare il difficile processo dell'educazione? Quello che sostengo nel libro è che le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare in modo che i diversi servizi che si occupano di infanzia, a partire ovviamente da quelli sanitari ma anche quelli educativi, quelli culturali come le biblioteche, dovrebbero essere messi in rete e lavorare assieme affinché fin da prima della nascita e soprattutto subito dopo i genitori trovino dei percorsi, degli spazi, dei luoghi dove poter stare assieme, confrontarsi e ricevere una guida. Siamo allo sport, calcio, torniamo sul pareggio casalingo dell'Udinese contro l'Atalanta, partita che ha visto i bianconeri con il piglio giusto e che carica di ottimismo la squadra, come dice mister Cioffi. Un gol non basta per sconfiggere la Dea, ma la strada è quella giusta. 5 punti in 3 partite contro Monza, Milan e Atalanta. In pochi ci avrebbero scommesso al momento del ritorno di Gabriele Cioffi sulla panchina friulana. Lo ha fatto la società, non i tifosi, ma i fischi ora fanno spazio agli applausi, anche dopo un pareggio. Stretto perché l'Udinese sbatte contro il palo con Success, spreca con Zemura e scivola nel finale con Christensen. Il tecnico però è convinto che gol e vittorie sono dietro l'angolo. I gol arriveranno, ma io non ho dubbi che i nostri attaccanti facciano gol. Finché non li faranno, la squadra li supporterà raccattando i gol da tutte le parti. E quindi Isaac sbaglia un rigore, non è un problema, ha fatto una partita da grande campione. La prossima volta il palo andrà dentro, la prossima volta gli tirano addosso, fa gol. Il calcio è questo qui. Se ti piangi addosso e vedi cosa non va, è più facile che ripigli un altro palo. Se invece vedi l'aspetto positivo, e ce n'è tantissimi... Wallace ha ritrovato fiducia e corsa, Ferreira e Pagero sono le risposte cercate in difesa e a centrocampo nel mercato in entrata. Martin Pagero, 25enne, cresciuto nel Banfield e prelevato dal Boca Juniors contro l'Atalanta, è stato uno dei migliori. L'equipo sta bien, sta lavorando. La squadra sta bene, sta lavorando e in campo si vede tutto questo. Eso es bueno también y para rescatar. Durante la pausa saranno 11 giocatori impegnati con le nazionali. I distacchi eccellenti e più importanti per Cioffi, quelli di Biol, Lovric, Samardžić e De Bosele. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ottimismo anche in casa della Pallacanestro Trieste, che ieri al Palatrieste ha battuto Cividale nel derby regionale. Cividale che comunque è sempre riuscita a rimanere in partita. La solita imprevedibile Cividale non basta per mettere i bastoni tra le ruote della miglior Trieste della stagione. Senza Brooks, i biancorossi hanno in ruzzier la mente, 11 assist e in campo grande il braccio per averla meglio sui ducali, 86-79. Una partita solida, quella dell'esterno romano, autore di 21 punti con 7 su 9 da 3. Stiamo ingranando anche in attacco, cerchiamo sempre più di creare soluzioni per avere più possibilità anche per noi tiratori. Oggi c'è stata, quindi sono contento di averla sfruttata e di aver vinto un derby importante. La Gesteco fa esordire Cole, spaesatissimo, ma in Marangon la sorpresa che non ti aspetti. 14 punti e tanta sostanza per il 18enne padovano. Speravamo finisse con una vittoria, ma è stata la mia miglior partita finora, speriamo ce ne siano delle altre. La differenza tecnica e fisica si vede a occhio nudo, ma Cividale ha la solita strategia: non mollare mai, rispondere sempre colpo su colpo e rendere orgogliosi 400 arrivati nel capoluogo dal Friuli orientale. Loro sono stati bravissimi perché ogni volta che ci siamo avvicinati ci hanno ricacciato indietro. È stata una bella partita, Campogrande ha fatto una prestazione personale strepitosa. Così serve una Trieste quasi perfetta in attacco, tira da 3 con 19 su 40, raggiunge addirittura il più 15 nell'ultimo quarto, ma poi subisce come tutti la voglia ducale. Cividale, nonostante Umiani in difficoltà, si invola con l'intercetto di Redivo sul meno 4 due minuti dalla fine. L'argentino però fa palo sull'azione del potenziale meno 2, mentre dall'altra parte Reyes abusa dello strapotere fisico su Rota e segna il canestro che scaccia le paure dei 3.000 triestini, imitato dalla tripla dall'angolo di Candussi che chiude i giochi. Per la squadra di Christian è la terza vittoria di fila, la prima giocando con il suo stile, pur senza il pupillo Brooks. Sono contento di come ci stiamo adattando a questo stile di gioco. Siamo andati meglio che nelle ultime settimane con il nostro ritmo. Avere Figlioli in campo rende più semplice il lavoro degli altri. Nel prossimo turno Cividale affronta in casa la capolista imbattuta Fortitudo, di scena mercoledì a Udine nel recupero. Trieste invece va a Rimini. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa seconda edizione. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Jacopo Brunissio e Carlo Morello e Andrea Fontanot. Da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.